La regina. La notte era buia, freddissima. La nostra regina, seduta a terra, ricamava. Da sola nella sua camera. In silenzio. Prese il tessuto tra le dita e lo stese sul pavimento. Mosse il telo provocando delle onde ampie e morbide. Come le onde del mare. Alzò lo sguardo di fronte a lei. Gerard si era addormentato su una panchina, aveva litigato ancora una volta con la sua fidanzata. Una spiaggia lunga bianca. Accarezzata dalle onde del mare limpide e calme. Il cielo azzurro. Il sole caldo. Alan era in pausa, si era addormentato su una sdraio un po' scomoda nello spogliatoio della caserma presso cui svolgeva le indagini. In alto una luce correva nel cielo. Sembrava un secondo sole. Sembrava un'astronave. Guardava la spiaggia e il mare sottostante. Marcel dormiva abbracciato al suo nuovo fidanzato, era contento. Marcel era romantico. Una strana ombra, un vapore nero avanzava. Voleva avvolgere tutto. Voleva coprire il cielo, il sole. Voleva cancellare il mare, la spiaggia. Andrea dormiva tra le due amiche con cui aveva trascorso la serata. La finestra accanto al loro letto si spalancò facendo entrare l'aria fredda di quella notte gelida. Gabriel galoppava sul suo cavallo. Alzò lo sguardo verso il cielo. Verso la luce che si muoveva sopra di lui. All'unisono Gerard, Alan, Marcel, Andrea ebbero un brivido di freddo, ma non si svegliarono. Eravamo tutti con Gabriel. Galoppavamo veloce. Gli zoccoli dei nostri cavalli squassavano la sabbia. Gerard riconobbe Rockel, Alan riconobbe Abuya, Marcel Manakel. C'ero anche io. C'era anche Lavia. C'era anche Rafael. C'era anche Michael con le sue legioni. Gerard, Alan, Marcel, Andrea riconobbero tutti noi, ma non si svegliarono. Michael sguainò la spada. Le sue legioni alzarono gli stendardi. Io aprii il palmo della mia mano verso il sole facendo apparire una sfera di fuoco. All'unisono Gerard, Alan, Marcel, Andrea ebbero un brivido di freddo, ma non si svegliarono. Una figura femminile galoppava accanto a Gabriel. Aveva i capelli nerissimi lunghissimi scompigliati dal vento. Aveva una spada d'oro legata ai fianchi. Lei da sola accelerò la galoppata. Era una guerriera. All'unisono Gerard, Alan, Marcel, Andrea sobbalzarono, ma non si svegliarono. La guerriera avanzò risoluta, determinata. Un suono assordante, grave e pieno. Come quello di un corno. La guerriera puntò la sua spada d'oro contro l'ombra nera che avanzava. Tagliò l'aria con la lama. Qualcosa si squarciò. Come se l'aria fosse di cellofane. L'ombra nera arretrò. Le stelle e la luna apparvero nel cielo insieme al sole. Le stelle, la luna e il sole. Illuminarono il cielo azzurro che brillava come un mantello carico di pietre preziose. All'unisono Gerard, Alan, Marcel, Andrea si svegliarono. Tutti e quattro si chiesero chi fosse la guerriera. Andrea lasciò cadere il suo sguardo verso la finestra ascoltando il suono della nuova giornata che stava iniziando.